8. Ascolta e controlla. 1. Quando noi giungemmo a casa la sera tardi, i nostri genitori guardavano la televisione. 2. Loro mi chiamarono mentre io prendevo degli appunti nel mio diario. 3. Noi suonammo a lungo il campanello, ma nessuno rispose perché tutti dormivano. 4. Noi chiedemmo una spiegazione, ma loro ci risposero che non potevano e non dovevano rispondere a questa domanda. 5. Io non andai a teatro con loro perché non mi piaceva il genere di commedia che davano quella sera. 6. In quell'occasione voi non accettaste il mio invito, perché eravate molto occupati e non potevate interrompere un lavoro che richiedeva ancora molto tempo e la massima concentrazione.